Se c'è una cosa che non mi piace, disse Cinzia a Mr. Gibson dopo che gli ebbe indicato il tonico come cura per la sua attuale condizione, è il fatto che i dottori prescrivano cucchiaiate di nauseanti miscele come rimedio, certo per la sofferenza e le preoccupazioni, rise davanti a lui mentre parlava. Aveva sempre una parola buona e un sorriso per lui, anche nel culmine del suo avvilimento. Andiamo, riconosci di avere delle sofferenze in ciò che dici. Faremo un patto. Se mi dirai quali sono le tue pene e le tue preoccupazioni, io tenterò di trovare un altro rimedio, invece di darti ciò che tu definisci le mie nauseanti miscele. No, disse Cinzia arrossendo, non ho detto di avere pene e preoccupazioni, ho parlato in generale. Per cosa dovrei essere addolorata? Voi e Molly siete persino troppo gentili con me e i suoi occhi si riempirono di lacrime. Beh, beh, non parliamo di queste cose tristi e ti darò un'emulsione dolce per mascherare il sapore delle medicine amare di cui sono obbligato a ricorrere. Vi prego, no, se solo sapeste quanto detesto le emulsioni e i mascheramenti. Voglio le medicine amare e se a volte, se ci sono costretta, se io non sono sincera con me stessa, mi piace la sincerità da parte degli altri, perlomeno qualche volta. Terminò la frase con un altro sorriso, che era però piuttosto debole e scialbo. Ora, la prima persona al di fuori della famiglia che notò il cambiamento dei modi e dell'aspetto di Cinzia fu Roger Hamley, eppure egli non la vide fino al momento in cui, sotto l'effetto delle nauseanti miscele, ella stava cominciando a star meglio. Gli occhi del giovane però non si staccarono quasi da lei nei primi 5 minuti in cui si trovò nella stanza. Mentre tentava di parlare con Mrs. Gibson, in risposta alle sue cortesi banalità, studiava Cinzia e alla prima possibile interruzione andò a mettersi di fronte a Molly in modo da interporsi tra lei e il resto della stanza. Infatti, dopo di lui erano entrati degli altri visitatori. Molly, che aspetto malato ha vostra sorella? Cos'ha? Ha ricevuto un consulto? Dovete perdonarmi, ma coloro che vivono insieme nella stessa casa non notano le prime manifestazioni della malattia. Ora l'affetto di Molly per Cinzia era saldo e incrollabile, ma se c'era qualcosa che lo metteva alla prova era l'abitudine che Roger aveva preso di chiamare Cinzia vostra sorella quando parlava con Molly. Detto da chiunque altro, per lei non avrebbe avuto importanza e ci avrebbe fatto appena caso, ma quando era Roger a usare quell'espressione, sia il suo orecchio che il suo cuore ne soffrivano, così sia il modo che le parole nella sua risposta risultarono bruschi. Oh! Era affaticata per il ballo. Papà l'ha visitata e dice che molto presto starà benissimo. Mi domando se le serva un cambiamento d'aria, disse Roger, meditabondo. Vorrei tanto che potessimo ospitarla a Hamley Hall e anche voi e vostra madre, naturalmente, ma non vedo come sarebbe possibile, altrimenti sarebbe meraviglioso. Molly percepì che una visita a Hamley Hall in quelle circostanze sarebbe stata una faccenda del tutto diversa dai suoi precedenti soggiorni, tanto che non avrebbe saputo dire se la prospettiva le risultasse gradita o meno. Roger proseguì: Avete ricevuto in tempo i nostri fiori, vero? Non sapete quanto spesso vi ho pensate quella sera e vi siete anche divertite, giusto? Avete avuto numerosi e piacevoli compagni e tutto questo ha reso il ballo delizioso. Ho sentito che vostra sorella ha preso parte a ogni danza. È stato molto piacevole, rispose Molly calma, ma dopo tutto non sono sicura che vorrei partecipare subito a un altro. Sembra esserci così tanto trambusto connesso con un ballo. Ah, pensate a vostra sorella, al fatto che non è stata bene. No, rispose Molly piuttosto schietta. Stavo pensando all'abito, al prepararsi, alla stanchezza del giorno dopo. Se avesse voluto, lui avrebbe potuto giudicarla insensibile. Molly sentiva come di provare in quel preciso momento un sentimento troppo intenso perché le stava provocando una strana contrazione del cuore. Ma Roger era troppo intimamente buono per interpretare con severità le sue parole. Un attimo prima di congedarsi, con il pretesto di tenerle la mano per salutarla, le disse con una voce troppo bassa perché gli altri potessero udire: C'è qualcosa che potrei fare per vostra sorella? Abbiamo tantissimi libri, lo sapete, se le piacesse leggere. Poi, non ricevendo in risposta alcuna parola o sguardo affermativi da parte di Molly, continuò: Oppure fiori? I fiori le piacciono? Le nostre fragole coltivate sono appena mature. Domani ne porterò un po'. Sono certa che le apprezzerà, replicò Molly. Per una ragione o per l'altra, sconosciuta ai Gibson, una pausa più lunga del solito intervenne fra le visite di Osborne. Roger invece arrivava ogni giorno e sempre con una nuova offerta con cui cercava apertamente di risollevare Cinzia dalla sua indisposizione, nei limiti delle sue capacità. I modi della ragazza con lui erano così gentili e aggraziati che Mrs. Gibson si allarmò, paventando che, pur nella sua rozzezza, come le piaceva definirla, egli potesse arrivare al punto di essere preferito a Osborne, il quale stava stranamente trascurando i suoi interessi, secondo lei. Con la sua calma, escogitava numerosi affronti verso Roger, ma le frecce rimbalzavano sulla natura generosa del giovane, che non avrebbe potuto indovinarne le ragioni, e si dirigevano invece su Molly. Quando era una bambina, quest'ultima era stata spesso definita cattiva e aggressiva, e ora pensava di aver cominciato a capire di aver davvero un carattere violento. Ciò che sembrava non offendere Roger né infastidire Cinzia faceva ribollire il sangue di Molly, e una volta che ebbe scoperto che Mrs. Gibson desiderava abbreviare e diradare le visite di Roger, era sempre sul chi vive alla ricerca dei segni di questa volontà. Leggeva dentro il cuore della matrigna quando quest'ultima alludeva alla solitudine dello Squire, ora che Osborne era lontano da Hamley Hall e Roger era spesso fuori casa fra i suoi amici durante il giorno. Mr. Gibson e io saremmo deliziati se poteste fermarvi a cena, ma naturalmente non possiamo essere così egoisti da chiedervi di restare, ricordando che vostro padre sarebbe lasciato solo. Ne parlavamo ieri. Ci chiedevamo come facesse a sopportare la solitudine, povero anziano gentiluomo. Oppure, non appena Roger entrava con il suo serto di rose precoci, era auspicabile che Cinzia andasse a riposare nella propria stanza, mentre Molly doveva uscire con Mrs. Gibson per qualche commissione o visita improvvisa. Ciò nonostante Roger, il cui obiettivo era compiacere Cinzia, e che sin dall'infanzia era sempre stato certo dell'amicizia che Mr. Gibson nutriva per lui, fu lento a percepire di non essere gradito. Se non vedeva Cinzia, era solo lui a perderci e in ogni caso si faceva dire come stava e le lasciava qualche oggettino che credeva le sarebbe piaciuto. E non era restio a rischiare le possibilità della propria gratificazione, passando 4 o 5 volte nella speranza di incontrarla una sola. Infine, venne il giorno in cui Mrs. Gibson andò oltre il proprio usuale atteggiamento sprezzante e in cui, in un insolito attacco di antipatia, perché generalmente era una persona dal carattere molto placido, si rese colpevole di vera e propria maleducazione. Cinzia stava molto meglio, i tonici avevano avuto effetto su una mente inquieta, sebbene lei odiasse ammetterlo, e il suo bel colore roseo e molta della sua leggerezza di spirito erano tornate, e non c'era ragione di restare in ansia. Mrs. Gibson sedeva in salotto a ricamare e le due ragazze erano alla finestra, con Cinzia che rideva dei seri tentativi di Molly di imitare l'accento francese con cui la prima aveva letto una pagina di Voltaire. Il dovere, o la farsa, dell'impegnarsi a migliorare le sue letture, infatti, veniva rispettato ogni mattina, anche se Lord Hollingford, consapevole promotore dell'idea, era tornato in città senza far nessuno dei tentativi di rivedere Molly che Mrs. Gibson aveva anticipato la sera del ballo. Quella visione di Al-Nashar si era schiantata al suolo. Era mattina presto, una deliziosa, fresca, adorabile giornata di giugno. L'aria era fragrante per i profumi della fioritura e per la metà del tempo in cui aveva finto di leggere in francese, le ragazze erano state esporte oltre la finestra aperta per tentare di raggiungere un grappolo di rose rampicanti. Alla fine c'erano riuscite, il mazzolino giaceva in grembo a Cinzia, ma molti dei petali si erano staccati, così. Benché il profumo aleggiasse intorno al sedile sotto la finestra, la piena bellezza dei fiori era scomparsa. Mrs. Gibson le aveva redarguite un paio di volte per il rumore garrulo che facevano, che la disturbava nel conteggio dei punti del suo lavoro. E quella mattina ella si era organizzata per fare una certa quantità di cose prima di uscire. Ed era di quella predisposizione che attribuisce un'importanza infinita alla realizzazione di piccole decisioni prese a proposito di inezie insignificanti, senza alcuna ragione. Fu annunciato Mr. Roger Hamley. «Che noioso!» esclamò Mrs. Gibson, gettando via il telaio da ricamo, in modo che lui poté quasi sentirla. Gli tese una mano fredda, immobile, con una parola di benvenuto mezzo mormorata, sempre scrutando dove fosse finito il telaio. Egli parve non accorgersene e si avvicinò alla finestra. Che delizia, commentò. Non c'è più bisogno delle rose di Hamley adesso che sono sbocciate le vostre. Sono d'accordo, convenne Mrs. Gibson, replicando prima che Cinzia o Molly potessero parlare, sebbene il giovane si fosse rivolto a loro. Siete stato molto gentile a portarci dei fiori così a lungo, ma adesso che sono sbocciati i nostri, non abbiamo più bisogno di incomodarvi. Egli la guardò con leggera sorpresa, che oscurò il suo volto onesto, forse più per il tono che per le parole. Mrs. Gibson, tuttavia, era stata abbastanza audace da sferrare il primo colpo ed era decisa a continuare, visto che se ne era presentata l'opportunità. Molly probabilmente si sarebbe addolorata di più se non avesse visto Cinzia vampare. Aspettava che parlasse lei, se ce ne fosse stato bisogno, perché sapeva che la difesa di Roger, in caso di necessità, poteva essere tranquillamente lasciata alla pronta arguzia di Cinzia. Il giovane allungò la mano verso il grappolo di rose malconce in grembo a Cinzia. In ogni caso, disse, il mio disturbo, se Mrs. Gibson ritiene che per me sia stato un disturbo, sarà più che ripagato se potrò avere questo. Vecchie lampade al posto delle nuove, commentò Cinzia, sorridendo mentre glielo porgeva. Vorrei che si potessero sempre comprare mazzolini come quelli che ci avete portato e con tale piccola spesa. Dimentichi lo spreco di tempo che credo dobbiamo calcolare come parte del pagamento, la rimbeccò sua madre. Davvero, Mr. Hamley, dobbiamo imparare a chiudervi le porte in faccia se venite così spesso e così presto. Io mi dispongo regolarmente al mio lavoro dopo colazione fino all'ora di pranzo. È mio desiderio che Cinzia e Molly perseverino in un percorso di studio e di miglioramento della lettura, molto auspicabile per le ragazze della loro età, se mai dovranno diventare donne intelligenti e socievoli. Ma se riceviamo visite a quest'ora è praticamente impossibile osservare la regolarità delle proprie abitudini. Tutto ciò fu detto con quel tono dolce e falso che di recente aveva su Molly l'effetto del gessetto che graffia la lavagna. Il volto di Roger cambiò, il suo colore acceso si fece pallido per un momento ed egli apparve serio e dispiaciuto. Un istante dopo la sua usuale franchezza espressiva ritornò. Perché? Si chiese. Non doveva crederle. Era presto per fare visita. Interrompeva la regolarità delle loro occupazioni. Allora disse: Credo di essere stato molto sbadato. Non tornerò più così presto, ma oggi avevo una scusa. Mio fratello mi ha raccontato che avevate progettato di andare a vedere Hurst Wood quando sbocciavano le rose, e quest'anno sono fiorite prima del solito. Sono andato a vedere. Ha parlato di una lunga giornata laggiù, di partire prima di pranzo. Il piano era stato fatto con Mr. Osborne Hamley. Non posso pensare di andarci senza di lui, ribatté freddamente Mrs. Gibson. Ho ricevuto una lettera stamattina in cui mi parlava del vostro desiderio e mi ha comunicato di non poter tornare a casa se non dopo che saranno sfiorite. Oserei dire che in realtà non c'è molto da vedere, ma la giornata è così bella che ho pensato che l'idea di recarci a Hurstwood sarebbe stato uno splendido pretesto per stare all'aperto. Grazie, come siete gentile e anche così buono a sacrificare il vostro naturale desiderio di stare con vostro padre il più a lungo possibile. Sono lieto di poter dire che mio padre sta molto meglio di quest'inverno e che trascorre fuori nei campi gran parte del suo tempo. È abituato a uscire da solo e io, noi, pensiamo che più riusciamo a farlo tornare alle sue antiche abitudini, meglio per lui. E quando tornate a Cambridge? L'atteggiamento di Roger fu un poco esitante mentre rispondeva. Non è sicuro. Probabilmente sapete che sono un fellow del Trinity ora. Non so ancora quali saranno i miei piani per il futuro. Sto pensando di recarmi presto a Londra. Ah, Londra è il posto giusto per un giovanotto, commentò Mrs. Gibson con decisione, come se avesse riflettuto un bel po' sulla questione. Se non fosse che questa mattina siamo veramente occupate, sarei stata tentata di fare un'eccezione alla nostra regola generale. Una sola eccezione ancora, perché le vostre visite a quest'ora ce ne hanno già fatte fare parecchie. Comunque, forse potremo vedervi di nuovo prima che ve ne andiate. Verrò di sicuro, confermò lui alzandosi per congedarsi e tenendo ancora in mano le rose rovinate. Poi, rivolgendosi specialmente a Cinzia, aggiunse: La mia permanenza a Londra non durerà più di qu una quindicina di giorni o giù di lì. C'è qualcosa che posso fare per voi o per voi, Molly? No, molte grazie, rispose Cinzia dolcemente. Dopodiché, agendo d'impulso, si sporse dalla finestra e raccolse per lui alcune rose appena sbocciate. «Vi meritate queste? Gettate via quel povero mazzetto sciatto!» Gli occhi di lui scintillarono, le sue guance risplendettero. Egli prese i boccioli che gli venivano offerti, ma non gettò via gli altri. «In ogni caso, posso venire dopo pranzo e da qui a un mese i pomeriggi e le sere saranno il momento più delizioso della giornata!» Rivolse queste parole sia a Molly che a Cinzia, ma nel suo cuore erano indirizzate solo a quest'ultima. Mrs. Gibson finse di non sentire cosa stava dicendo, ma gli porse di nuovo la mano flaccida. «Immagino che vi vedremo al vostro ritorno, e per favore, dite a vostro fratello che non vediamo l'ora che torni a farci visita!» Quando Roger ebbe lasciato la stanza, il cuore di Molly era gonfio. Aveva visto il suo viso e aveva letto parte dei suoi sentimenti, la sua delusione, quando i suoi piani per una piacevole giornata a Hartswood erano stati respinti, la protratta convinzione che tanto lentamente si era impadronita di lui, che la sua presenza non fosse gradita alla moglie del suo vecchio amico. Forse, dopo tutto, queste cose toccarono più acutamente Molly che lui. La sua espressione luminosa quando Cinzia le aveva regalato i boccioli di rosa indicava un afflato di improvviso diletto, più vivido del dolore che aveva manifestato con la sua precedente serietà. «Non riesco a capire perché debba presentarsi in orari così inappropriati», fece Mrs. Gibson, non appena sentì che il giovane era uscito dalla casa. «Con Osborne è diverso, siamo molto più in confidenza con lui. È venuto ed è diventato nostro amico per tutto il tempo in cui questo suo stupido fratello si intontiva il cervello con la matematica Cambridge. Fellow al Trinity, niente meno. Vorrei che imparasse a restarsene lì e non a impicciarsi qui e a ritenere che siccome ho invitato Osborne a unirsi a noi per un picnic, per me non faccia differenza quale dei due fratelli partecipi. In breve, mamma, l'uno può rubare il cavallo, ma all'altro non è permesso guardare oltre la siepe», disse Cinzia un po' imbronciata. «E i due fratelli sono sempre stati trattati dai loro amici allo stesso modo. C'è un tale legame tra loro che non c'è da meravigliarsi se Roger pensa di essere il benvenuto dove a Osborne è consentito presentarsi a qualsiasi ora», continuò Molly davvero indignata. «E che Roger si intontisse il cervello, poi. Roger stupido!» «Oh, molto bene, mie care. Quando io ero giovane non sarebbe stato ritenuto opportuno che delle ragazze della vostra età cedessero in escandescenza perché si imponevano delle piccole limitazioni agli orari in cui potevano ricevere la visita di un giovanotto. E ci si sarebbe immaginati che ci fossero delle buone ragioni per cui i loro genitori disapprovavano le visite di certi gentiluomini, anche se erano orgogliosi e compiaciuti di incontrare altri membri della stessa famiglia. Ma questo è ciò che ho detto io, mamma», disse Cinzia, guardando la madre con un'espressione di innocente smarrimento sul viso. «L'uno può? Zitta, bambina! Tutti i proverbi sono volgari! E credo che questo sia il più volgare di tutti. Stai davvero prendendo la rozzezza di Roger Hamley, Cinzia?» «Mamma!» ribatté Cinzia arrabbiata. «Non mi interessa che mi insulti, ma Mr. Roger Hamley è stato molto gentile con me quando non stavo bene. Non sopporto di sentirlo screditato. Se lui è rozzo, non ho alcuna obiezione a esserlo anch'io, perché mi sembra che questo significhi buon cuore e piacevolezza e l'offerta di regali e di bei fiori». A queste parole le lacrime stavano per traboccare dagli occhi di Molly. Avrebbe potuto baciare Cinzia per la sua calorosa apologia, ma timorosa di tradire le proprie emozioni e di fare una scenata, come Mrs. Gibson definiva qualsiasi segno di un vivo sentimento, ella posò di scatto il libro e corse di sopra nella sua stanza, chiudendo la porta a chiave per poter respirare liberamente. C'erano tracce di pianto sul suo volto quando tornò in salotto mezz'ora più tardi, camminando dritta e contegnosa fino al posto che occupava prima, dove Cinzia stava ancora seduta a guardare pigramente fuori dalla finestra, imbronciata e scontenta. Mrs. Gibson, nel frattempo, contava i punti ad alta voce con grande chiarezza e vigore. Capitolo 29. Guerriglia. Nel corso dei mesi trascorsi dalla morte di Mrs. Hamley, Molly si era interrogata molte volte sul segreto del quale era venuta a conoscenza, suo malgrado, quell'ultimo giorno nella biblioteca di Hamley. Alla sua mente inesperta sembrava una cosa strana e inaudita che un uomo, sebbene sposato, non vivesse insieme alla moglie, che un figlio avesse contratto il sacro vincolo del matrimonio senza che suo padre lo sapesse e senza essere riconosciuto come il marito di una donna nota o ignota a tutti coloro con cui egli veniva in contatto tutti i giorni. Per questa ragione, occasionalmente, Molly sentiva come se quei veloci 10 minuti di rivelazione fossero stati una visione dentro un sogno. Da allora, sia Roger che Osborne avevano mantenuto il più totale silenzio sull'argomento. Nemmeno uno sguardo, nemmeno un'esitazione tradivano una minima allusione. Sembrava persino che la questione fosse uscita dai loro pensieri. L'enorme e doloroso evento della morte della madre riempiva la loro mente in occasione del loro successivo incontro con Molly, e da quel momento si erano verificate lunghe assenze. Cosicché ella a volte credeva che entrambi i fratelli avessero dimenticato il fatto che lei fosse venuta a conoscere del loro importante segreto. Lei stessa spesso se ne scordava del tutto, ma forse la consapevolezza della sua realtà era inconsciamente presente in lei e la rendeva capace di comprendere la reale natura dei sentimenti di Osborne verso Cinzia. In ogni caso, neanche per un momento, ella suppose che i modi gentili e simpatici del giovane verso Cinzia significassero qualcosa di diverso dalla cortesia di un amico. Strano a dirsi, in quegli ultimi giorni Molly aveva considerato il rapporto tra Osborne e lei stessa come identico a quello che un tempo aveva avuto con Roger, e pensava al primogenito come una specie di fratello, sia per sé che per Cinzia, così come lo sarebbe stato a un qualunque giovanotto che non avessero conosciuto da bambine e che non fosse in alcun modo imparentato con loro. Ella riteneva che in seguito alla morte della madre i modi di Osborne fossero molto migliorati e forse anche il suo carattere. Non era più sarcastico, pignolo, vanesio, arrogante. Lei non sapeva con quanta frequenza tutti questi atteggiamenti o modi di parlare fossero artefatti, atti a celare la timidezza e la vergogna e a nascondere agli estranei la vera natura del suo essere. La conversazione e l'atteggiamento di Osborne avrebbero molto probabilmente potuto essere uguali a prima se egli si fosse ritrovato tra persone che non conosceva, ma Molly lo vedeva solo nella propria cerchia, nella quale egli si trovava in termini di schietta confidenza. Comunque non c'era dubbio che fosse davvero migliorato, anche se forse non nella misura di cui Molly gli dava credito, e questa esagerazione da parte sua fu suscitata molto spontaneamente dal fatto che lui, percependo la calorosa ammirazione provata da Roger per Cinzia, si era ritirato un po', lasciando campo libero al fratello. Ed era solito andare a parlare con Molly per non intromettersi tra Roger e Cinzia. Delle due, forse Osborne preferiva Molly. Con lei non era costretto a parlare come se non fosse di cattivo umore. Il loro rapporto era così stretto da permettere il silenzio e da non richiedere di comportarsi diversamente da quanto imposto dallo stato d'animo. A volte, infatti, quando era di disposizione critica e pignola come un tempo, Osborne era solito tormentare Roger insistendo che Molly era più bella di Cinzia. Vada ciò che dico, Roger. Da qui a 5 anni i bei rossori e i candori di Cinzia si faranno un pochino ordinari. E la sua figura si ingrosserà, mentre quella di Molly si trasformerà solo in una grazia più perfetta. Credo che la ragazza non abbia ancora finito di crescere. Sono certo che è più alta di quanto l'ho vista la prima volta l'estate scorsa. Gli occhi di Miss Kirkpatrick saranno sempre perfetti. Non riesco a immaginare che altri possano assomigliare ai suoi: dolci, gravi, attraenti, teneri e di un colore paradisiaco. Spesso tento di trovare in natura qualcosa con cui paragonarli. Non sono come le violette, quell'azzurro negli occhi, è come una debolezza fisica della vista e non come il cielo. Quella sfumatura contiene una vena di crudeltà. Andiamo, non continuare a voler accostare il colore dei suoi occhi come se fossi un tappezziere e quelli un pezzo di nastro. Di' semplicemente che i suoi occhi sono stelle polari e facciamola finita. Io considero quelli di Molly grigi, con le ciglia nere curvate, molto più particolari di quelli di Cinzia, ma naturalmente è solo questione di gusti. E ora sia Osborne che Roger avevano lasciato il circondario. Nonostante tutto ciò che Mrs. Gibson aveva affermato a proposito del fatto che le visite di Roger fossero inopportune e invadenti, ora che erano cessate del tutto, ella cominciò a ritenerle una distrazione molto piacevole. Egli portava in casa una ventata di aria nuova, diversa da quella di Hollingford. Lui e suo fratello erano sempre disposti a eseguire infinite piccole commissioni che solo un uomo può svolgere per una donna. Minuscoli servizi che Mr. Gibson era sempre troppo occupato per espletare. Infatti, gli affari del bravo dottore erano di molto aumentati. Egli pensava che questa crescita fosse dovuta alla propria grande abilità ed esperienza e forse si sarebbe sentito mortificato se avesse saputo che molti dei suoi pazienti erano spinti a ricorrere proprio a lui semplicemente perché era il medico delle torri. Qualcosa del genere doveva aver pensato anche la famiglia Kemner, quando molto tempo prima aveva iniziato a corrispondergli una parcella molto esigua. Di per sé il denaro che egli riceveva per essere stato convocato alle torri gli avrebbe appena ripagato il cavallo, ma come Lady Kemner aveva asserito quando era giovane, è una cosa così importante per un uomo agli inizi della professione poter dire di essere impiegato in questa casa. Così il prestigio era tacitamente venduto e pagato, ma né il compratore né il venditore definirono mai la natura di quel contratto. In linea generale era un bene che Mr. Gibson trascorresse così tanto tempo lontano da casa. Lo pensava lui stesso, a volte quando la moglie era lamentosa o irritata, o quando la sentiva ciarlare su cose assolutamente insignificanti, e percepiva allora quanto fossero inconsistenti tutti i suoi bei sentimenti. Eppure, egli non si consentiva di pentirsi del passo che aveva compiuto. Chiudeva caparbiamente gli occhi e si turava gli orecchi con la cera a fronte di tante piccole cose che lo sapeva lo avrebbero infastidito se ci avesse prestato attenzione. E durante le sue cavalcate solitarie si sforzava di indugiare sui vantaggi positivi che il matrimonio aveva portato a lui e alla sua famiglia. Aveva ottenuto un ineccepibile chaperon, se non una tenera madre per la sua bambina, un'abile amministratrice della sua un tempo caotica situazione domestica. Una donna che era graziata e piacevole da guardare all'altro capo della tavola. Inoltre Cinzia pesava sul piatto favorevole della bilancia. Era una compagna eccellente per Molly e le due si volevano evidentemente un gran bene. La compagnia femminile offerta dalla madre e dalla figlia era gradevole per lui come per la sua bambina. Quando Mrs. Gibson era moderatamente sensata e non ipersensibile, aggiungeva l'uomo tra sé e sé. E poi si correggeva perché non si sarebbe permesso di prendere atto maggiormente dei difetti e delle manie di lei con il dar loro una definizione. In ogni caso era innocua e una matrigna meravigliosamente adatta a Molly. Anche lei stessa si vantava di esserlo e spesso sottolineava il fatto di essere diversa da tutte le altre donne della sua stessa posizione. In quelle circostanze, agli occhi di Mr. Gibson salivano improvvisamente le lacrime, perché si rendeva conto di come la sua piccola Molly fosse diventata silenziosa e introversa nel suo comportamento verso di lui. Se non che, una volta o due, incrociandolo sulle scale o trovandosi in altre situazioni prive di testimoni, ella lo aveva fermato e l'aveva baciato, sulla mano e sulla guancia, in un triste impulso d'affetto. Un istante dopo, però, egli iniziava a fischiettare una vecchia aria scozzese che aveva sentito da bambino e che da allora non gli era mai tornata in mente. E dopo altri 5 minuti era troppo occupato a trattare un caso di gonfiore bianco nel ginocchio di ragazzino e a riflettere su come consolare la povera madre che era andata a lavorare tutto il giorno e aveva dovuto ascoltare i lamenti del bambino per tutta la notte, per pensare alle proprie preoccupazioni, che se davvero esistevano, erano di natura estremamente vana. Si è paragonata alla dura realtà di questo dolore disperato. Osborne tornò a casa per primo. Fece ritorno in effetti non molto tempo dopo che Roger se ne fu andato, ma era debole, non stava bene e per quanto non si lamentasse non si sentiva in grado di compiere alcuno sforzo. Così una settimana o due trascorse prima che i Gibson sapessero che si trovava ad Hamley Hall e poi fu solo per caso che ne vennero a conoscenza. Mr. Gibson lo incontrò in una delle stradicciole nei pressi di Hamley. L'acuto dottore notò l'andatura del giovanotto che si avvicinava prima di riconoscere chi fosse. Quando lo incrociò, gli disse: Ma Osborne, siete voi? Pensavo fosse un vecchio cinquantenne che arrancava davanti a me. Non sapevo che fosse tornato. Sì, disse Osborne, sono a casa da circa 10 giorni. Forse avrei dovuto farvi visita perché avevo quasi promesso a Mrs. Gibson che l'avrei informata non appena fossi tornato. Ma il fatto è che mi sento un buono a nulla. Quest'aria mi opprime. Quasi non riuscivo a respirare in casa. Eppure sono già stanco per questa breve passeggiata. Fareste meglio a rientrare subito. Verrò a visitarvi tornando dalla casa di Row. No, non dovete, per nessuna ragione. Si affrettò a ribattere Osborne. Mio padre è già abbastanza infastidito dal fatto che mi allontano da casa così spesso, dice lui, anche se erano 6 settimane. Attribuisce la mia debolezza al fatto che sono stato via. È lui che tiene i manici della borsa, capite? Aggiunse con uno scialbo sorriso. E io mi trovo nella disgraziata posizione di erede squattrinato e sono stato cresciuto in modo così. In effetti, sono costretto a lasciare la mia casa di tanto in tanto e se mio padre si convince del fatto che la mia salute è peggiorata a causa delle mie assenze, smetterà del tutto di finanziarmi. Posso chiedervi dove trascorrete il tempo quando non siete a Hamley Hall? Chiese Mr. Gibson un po' esitante. No, fece Osborne restio. Vi dirò questo. Sto con degli amici in campagna. Conduco una vita che dovrebbe favorire la salute perché è semplice, sensata e felice. E così vi ho rivelato più di quanto sappia mio padre. Lui non mi chiede mai dove sono stato e se lo facesse non gli risponderei, almeno penso di no. Mr. Gibson continuò a cavalcare al passo di Osborne senza dire nulla per un momento. Osborne, in qualunque guaio vi siate cacciato, vi consiglio di parlarne chiaramente a vostro padre. Io lo conosco e so che all'inizio si arrabbierà parecchio, ma poi ci si adatterà. Avete la mia parola e in un modo o nell'altro troverà il denaro per ripagare i vostri debiti e rendervi libero, se è questo il problema. E se invece si tratta di un altro tipo di difficoltà, beh, lui è il vostro migliore amico. È questo screzio con vostro padre che mina la vostra salute, ne sono certo. No. Obiettò Osborne, vi chiedo scusa, non si tratta di questo, davvero non mi sento in forze. Direi che la mia reticenza ad affrontare il malanimo di mio padre è la conseguenza della mia indisposizione. Vi garantisco che non è la causa. Il mio istinto mi dice che c'è qualcosa che non va in me. Andiamo, non opponete il vostro istinto alla professione, ribatté allegramente Mr. Gibson. Scese da cavallo e, passandosi le redini intorno al braccio, esaminò la lingua di Osborne e gli tastò il polso, ponendogli diverse domande. Alla fine dichiarò: Ne capiremo presto il motivo, anche se vorrei scambiare una più quieta chiacchierata con voi, e senza una bestia che mi strattona a fare da terzo incomodo. Se riusciste a fare un salto da noi per pranzo domani, il dottor Nichols sarà a casa nostra. Deve venire per visitare il vecchio Roe. Così voi avrete il beneficio di 2 medici invece di uno solo. Ora, andate a casa. Vi siete sforzato abbastanza in un mezzogiorno caldo come questo. E una volta lì, non vi deprimete badando ai farfugliamenti del vostro stupido istinto. Cos'altro da fare? Disse Osborne. Io e mio padre non ci facciamo compagnia. E uno non può leggere e scrivere per sempre, specialmente quando facendolo non c'è alcuno scopo da raggiungere. Non ho problemi a rivelarvi, ma in confidenza ricordate che ho tentato di far pubblicare alcune delle mie poesie. Ma nessuno come un editore è capace di abbattere la tua autostima. Nessuno di loro le ha accettate, neanche il regalo. Si tratta di questo allora, Mastro Osborne. Ero sicuro che questa depressione della vostra salute avesse una causa mentale. Non mi ci tormenterei se fossi in voi, anche se so che è più facile a dirsi. Tentate con la prosa, se non riuscite a soddisfare gli editori con la poesia. In ogni caso, però, non piangete sul latte versato. Ma non posso perdere tempo qui. Venite da noi domani, come ho detto, e credo che con la saggezza di 2 dottori e lo spirito e la sciocchezza di 3 donne vi tireremo un po' su. Così dicendo, Mr. Gibson rimontò in sella e corse via, con quel passo al trotto lungo e lanciato che la gente della campagna riconosceva subito come suo. Il sospetto non mi piace, pensò Mr. Gibson quella sera, mentre chino sui suoi brogliacci faceva il resoconto degli eventi della giornata. E poi quel polso. Ma quanto di frequente ci sbagliamo? E 10-1 che il mio nemico interiore mi sta appresso più di quanto non faccia il suo con lui, sempre a guardare il lato peggiore di un caso. La mattina dopo, Osborne si presentò molto prima di pranzo e nessuno protestò per il fatto che arrivasse così presto. Si sentiva meglio. Portava su di sé scarsi segni di indisposizione e i pochi che comparivano svanirono sotto l'effetto luminoso e piacevole dell'accoglienza che ricevette da tutti loro. Molly e Cinzia avevano molto da raccontargli delle piccole cose che erano avvenute in sua assenza o dovevano riferirgli gli esiti di progetti realizzati per metà. Cinzia era spesso prossima a indagare con allegria e spensieratezza a proposito di dove fosse stato e cosa avesse fatto. Ma Molly, che immaginava la verità, altrettanto spesso si intrometteva per risparmiargli la pena dell'equivoco, una pena che la sua tenera coscienza avrebbe provato per lui, più di quanto ne avrebbe sofferto lui stesso. I discorsi di Mrs. Gibson furono sconnessi, complimentosi, sentimentali, come al solito. Eppure in generale, seppure Osborne sorridesse nascostamente nell'ascoltarla, erano discorsi consolanti e piacevoli. Dopo un po' entrarono il dottor Nichols e Mr. Gibson. Avevano già avuto un consulto a proposito della salute di Osborne e di quando in quando lo sguardo acuto e penetrante del vecchio ed esperto medico si soffermava sul giovanotto. Dopodiché pranzarono. Tutti erano gaj e affamati, a eccezione della padrona di casa che stava tentando di allenare il suo appetito di metà giornata alla più nobile delle abitudini e pensava, sbagliando, che il dottor Nichols fosse la persona giusta con cui praticare i segni di una cattiva salute. Cosicché egli le avrebbe elargito l'opportuna e cortese quantità di commiserazione per le sue sofferenze che qualunque ospite dovrebbe riservare a una padrona di casa che si lamenta per la propria debole costituzione. L'anziano dottore era un uomo troppo astuto per cadere in questa trappola. Non fece che consigliarle di assaggiare le vivande più rustiche che si trovavano sulla tavola e alla fine le domandò se non avesse voglia di provare la carne fredda con le cipolle sott'aceto. Nei suoi occhi balenò una scintilla, mentre diceva così che avrebbe rivelato la sua ironia a qualunque osservatore. Ma Mr. Gibson, Cinzia e Molly stavano tutti attaccando Osborne in merito a una certa preferenza letteraria che egli aveva dichiarato. E il dottor Nichols ebbe Mrs. Gibson completamente alla sua mercé. Alla donna non dispiacque, alla fine del pranzo, lasciare la stanza ai tre gentiluomini, e da allora in poi si riferì sempre al dottor Nichols definendolo quell'orso. Poco dopo Osborne salì al piano di sopra e, come di consueto, iniziò a esaminare alcuni libri e a interrogare le ragazze sulla loro musica. Mrs. Gibson dovette uscire per delle visite, così li lasciò insieme. E dopo un po' i tre si trasferirono in giardino. Osborne seduto pigro su una sedia, mentre Molly si era disposta assiduamente al lavoro sui gerani e Cinzia raccoglieva fiori con il suo fare aggraziato e spensierato. «Spero che notiate la differenza tra le nostre occupazioni, Mr. Hamley. Molly, come vedete, si dedica ad attività utili e io a quelle ornamentali. Di grazia, entro quale categoria definite ciò che state facendo voi?» Penso che potreste aiutare o me o lei invece di guardare avanti a voi come il Grand Seigneur. Non so cosa potrei fare, rispose lui piuttosto tristemente. Mi piacerebbe rendermi utile, ma non so come. Il tempo delle opere puramente ornamentali è passato per me. Dovete lasciarmi stare, temo. Inoltre sono veramente piuttosto esausto per essere stato interrogato e tirato di qua e di là da quei due bravi dottori. Ma come? Non vorrete dire che vi hanno assalito sin da dopo pranzo, esclamò Molly. Sì, è proprio così. E avrebbero proseguito finora, se Mrs. Gibson non fosse entrata al momento opportuno. Pensavo che la mamma fosse uscita da un bel po', fece Cinzia, cogliendo parte della conversazione mentre volteggiava tra i fiori. È entrata in sala da pranzo neanche 5 minuti fa. Avete bisogno di lei? Vedo che sta attraversando l'ingresso proprio in questo momento. E Osborne fece per alzarsi. Oh no, niente affatto, disse Cinzia. È solo che sembrava avere molta fretta di uscire, perciò immaginavo che fosse andata via da un bel pezzo. Aveva una commissione da fare per Lady Kemnor e pensava di riuscire a incrociare la governante, che di giovedì è sempre al villaggio. La famiglia tornerà alle torri quest'autunno? Credo di sì, ma non lo so e non mi interessa granché. Non sono gentili con me, proseguì Cinzia. Così suppongo di non essere abbastanza generosa da essere gentile con loro. Avrei creduto che questa insolita colpa di discriminazione li avrebbe resi interessanti ai vostri occhi, in quanto persone fuori dal comune, disse Osborne, con l'aria di una deliberata galanteria. Non è un complimento, ribatté Cinzia, dopo una pausa di finta meditazione. Se una persona mi fa un complimento, per favore, che sia breve e chiaro, sono molto stupida, non riesco a cogliere significati nascosti. Dunque, frasi come siete molto graziosa o avete modi affascinanti sono quelle che preferite? Ora, io mi vanto di saper velare con raffinatezza le mie lusinghe. Allora vi prego, mettetele per iscritto e quando ne avrò voglia le analizzerò. No, troppa fatica. Vi vengo incontro a metà strada e per la prossima volta studierò la chiarezza. Di cosa state parlando voi due? Chiese Molly. Perché posandosi sulla sua vanga. È solo una discussione sul modo migliore di fare un complimento, rispose Cinzia, riprendendo il suo canestro di fiori, ma senza abbandonare la conversazione. A me non piacciono, per nessuna ragione, dichiarò Molly. Ma forse è come la storia della volpe e dell'uva, aggiunse. Sciocchezze, ribatté Osborne. Devo dirvi cosa ho sentito di voi al ballo? O dovrò incitare Mr. Preston, incalzò Cinzia, a cominciare a parlare di te. È come un rubinetto, un flusso di parole gli escono in un istante. Le sue labbra si incurvarono con scherno. Per te, forse, precisò Molly, ma non per me. Per qualunque donna. È la sua idea di rendersi gradevole. Se mi sfidi, Molly, tenterò l'esperimento e vedrai che è successo. No, no, ti prego, implorò subito Molly. Lo detesto così tanto. Perché? Domandò Osborne, un po' curiosito dalla sua veemenza. Oh, non so. Sembra che non sappia mai cosa sta provando una persona. Ma anche se lo sapesse, non gli interesserebbe essere Cinzia e potrebbe sapere che non è desiderato. Se sceglie di restare, poco sicura se la sua presenza è gradita o no. Però questo è molto interessante, fece Osborne, come la strofe e l'antistrofe in un coro greco. Vi prego, continuate. Voi non lo conoscete? Chiese Molly. Sì, di vista, e mi pare che siamo stati presentati, ma vedete, noi a Hamley siamo molto più lontani da Ashcombe di quanto non lo siate voi di Hollingford. Oh. Ma prenderà il posto di Mr. Sheepshanks e allora verrà a vivere sempre qui, lo informò Molly. Molly, chi te l'ha detto? Esclamò Cinzia con un tono di voce del tutto diverso da quello usato sin da quel momento. È stato papà? Non hai sentito? Ah no, è stato prima che scendessi stamattina. Papà ieri ha incontrato Mr. Sheepshanks che gli ha detto che è tutto deciso. Se ti ricordi, giravano delle voci a riguardo in primavera. Dopo questa affermazione, Cinzia fu molto silenziosa.